morto, cosa significa morto? Che non ha più le corde vocali per dire no. Michele è morto, morto, terribilmente morto. Ve lo giuro, vi avrebbe fatto un culo così. Suoi vestiti strani, portati con l'arroganza dei vostri silenzi, non gli occorrevano ragioni per rifiutare tutto e tutti, e con i vostri vestiti uguali partecipate a cerimonie che non hanno senso, che non hanno senso, che non hanno senso. Le comiche borghesi che non sanno più sognare, le comiche borghesi che non hanno da imparare, le comiche borghesi che c'è sempre da morire, le comiche borghesi che non sanno più fumare, non sanno più fumare, le comiche borghesi che non sanno più sognare, le comiche borghesi che non hanno da imparare, le comiche borghesi che c'è sempre da morire, le comiche borghesi che non sanno più fumare. Non sanno più fumare. Vivo, vivo, cosa significa vivo? Che lo ricordo bene come se fosse ieri. Michele è vivo, vivo, terribilmente vivo, come se amasse ora ciò che era ieri. Michele è vivo, vivo, spudoratamente vivo, come se il colpo lo avesse preso di faccia ancora. E con i suoi vestiti strani, portati con l'arroganza dei vostri silenzi, non gli occorrevano ragioni per rifiutare tutto e tutti, e con i vostri vestiti uguali partecipate a cerimonie che non hanno senso. Non dimenticare, le autentiche persone non si vogliono